Il punto di Stefano Folli. In un paese senza lavoro, come ha ricordato per primo il Presidente della Repubblica, la festa del primo maggio non poteva essere diversa da come è stata, abbastanza mesta, nervosa, prigioniera in qualche caso di vecchi schemi, tutto molto sottotono, specchio di un paese incerto e pessimista, che in questa cornice, cioè nel vuoto generale, il concerto di Piazza San Giovanni a Roma sia diventato il palcoscenico per un piccolo comizio politico anti-Renzi da parte di un cantante non dovrebbe essere nemmeno una notizia. Invece rischia di diventare un tema di discussione in un paese dove nessuno fa nulla e quando qualcuno prova a fare qualcosa, magari sbagliando, magari esagerando con gli annunci prima dei fatti, salta su un altro che lo accusa di essere niente meno che un affiliato della P2. È la tecnica di Beppe Grillo che sta facendo scuola, ma almeno Grillo ha una ragione perché deve prendere i voti alle elezioni.